Oh. Allora? Non so, fai il canta, no? Ti sto facendo il ritmo. È il presigla, Pio, dai. Pio. Ma quanto ci manchi? La nostra terapia. Ma ti sembra un freestyle, un rap? È una roba latinoamericana, È una ritmica. Tipo, oie come va? È una base, no? Vabbè, una base. Ma i bambini sono così, non sanno che ci sono altri. Pio, dove va? Oh. Ah. Ritorna, ti prego, torna qua. Se ci andiamo in sbattimento, Pio, torna qua. E qui... Vabbè, ma dai. Beh, fine, anche a tutte le basi c'è sempre il problema di base, ecco. Cambi genere. Sì, vai dal freestyling. Il problema di base, sai qual è? Al sudamericano c'è sempre qualcuno che la base è meglio che va a fare base. La sigla. E tu. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. E un saluto anche da Daniel Plenz. Ma come? Da Guido Bertolotti. Ma adesso, da ma... Tommaso Varvello. Ma dici Alberto tutti... Caserini. Ma come? Siamo Laura Faggin. All'inizio della puntata. Alessandro Longoni. Oh, Kappa. Carmelo Lauricella. Ma siamo Drago, oggi è venerdì. E quindi? E quindi è venerdì, si finisce, no? Si saluta, si ringrazia. Comincia dalla fine. È un po' sì. Va bene. Venerdì, poi tra l'altro oggi è il 4 novembre, quindi... No, Kappa, cosa stai dicendo? Oggi... È una data importante, Drago, oggi è il 4 novembre. Ma non è il 4 novembre oggi, ma no! Ma sì, guarda che tutti i giorni possono essere il 4 novembre. Vabbè. Vai avanti e indietro col tempo, adesso schiacciamo Rewind. Oggi è il 4 novembre, 4 novembre. È una data importante. Ma infatti sai, ci sono un sacco importante. Di via 4 novembre, ma non so mica il perché. Perché ma lo sai perché non lo sai? Perché... Sei ignorante. Il 4 novembre si festeggia la vittoria dell'Italia nella prima guerra mondiale. Ah, perché? L'abbiamo vinta la prima guerra mondiale. Questo è molto divertente. La guerra è gagnée. La Geure Geure. La Geure Geure. Drago, sul pezzo. Ma chi è Geure Geure? È De Gaulle, no? Ah, De Gaulle. Si riconosce, dice la Geure. La Geure, vabbè, scherzi a parte, non mi ricordavo più che abbiamo vinto la prima Geure mondiale. Faccio un po' di confusione con la seconda, no? Abbiamo vinto anche la seconda. Ah, già, è vero. Vabbè, ma insomma, chi se ne frega, dai, siamo nel 2011, le guerre mondiali sono ormai storia con la S maiuscola, attento, è la storia. Si studia attento, a scuola. E io a scuola sono 25 anni che non vado più, quindi vabbè. Sono giustificato. Ti va benissimo che i veterani della prima guerra mondiale non ormai ci sono più, vabbè. Sono tutti anche loro. Se no sai che lamentele che arrivavano via mail tutte. Sì, vabbè, dai, un ragazzo del 99 che scrive una mail di protesta, Chiedo Asilo, non me lo vedo proprio. 1899, beh, specifica, sì. Se no qui si fa confusione, con i dodicenni. Qui ci sono i dodicenni che ci ascoltano. E quindi anche quelli sono. E loro sono anche loro ragazzi del 99. Ah, già, però il bello è che nessun ragazzo del 99 di oggi sa niente dei ragazzi del 99 della prima guerra mondiale. Vero tu, ragazzo del 99, che sei in ascolto? Chi erano i ragazzi del 99? Vedi che non lo sai? E lo sai perché non lo sai? Perché sei ignorante. Ma chi io? Ma no, è il ragazzo del 99 che ci sta ascoltando. Ah, già. Però ti senti sempre chiamato in causa. Quando si parla di ignoranza, ma non è come vero, mai? Cosa dici? Hai la tipica coda di paglia dell'ignorante moderno. Ma dai, sì, ma smetti. Perché non sa niente, non sa niente di niente, però confida in Google, in Wikipedia. Vabbè, in... è praticamente chiunque oggi. Quindi è vero. Ma cosa? Che anche tu Sei ignorante. E ora, bambini, ricreazione. Voi due, dolcetto o scherzetto? Ma cosa vuoi? Non mi sono spiegato, dolcetto o scherzetto? Ma cosa dici? Cioè, o mi date una torta gelato o vi faccio tagliare le gomme della macchina. Ma vabbè, ma cosa stai dicendo? Mi basta un sms e c'è chi fuori lo fa, Allora, ma cosa, ma adesso... Se sapevo che non volevate festeggiare con me, anzi... Oltretutto, oltre che a torta gelato, c'è anche Gildo. Portate una bella zucca. La zucca di Halloween, però ripiena. Ma stai scherzando? Ma cosa dico? La zucca di Halloween ripiena di budini. Ma poi voglio dire, tagliare le ruote. Tu, questo qui è taglieggiare, non è festeggiare. Infatti. Ma chi ci hai preso qui? Allora, questa è la vostra bella disponibilità verso i bambini. No, ma è siete qua 3 giorni alla settimana a disturbare. No. Che qui siete tutti tranquilli. Vabbè. Una volta che vi chiedo di partecipare con un po' di entusiasmo a una festa per bambini, vi trattate come il figlio della serva. Ma sarebbe una torta gelata e la zucca ripiena, invece no. Ma non siete mai stati bambini voi? Dai. Ma quante scene, sì, ma noi infatti, non pensavamo di urtare così tanto la tua sensibilità. Dai, ciao, vieni qui, vuoi una cicca? No? Non mi prendete per il culo, Ma no, è per l'acciometro! Come no? Non lo ricordavo più. Invece c'è ancora. La cicca ve la mangiate voi. Ah, e spero che si attacchi al lavoro del vostro dentista. Ma visto che voi, te... vista l'età, siete vecchissimi, sarete pieni di lavori dentisti. Vabbè, ce n'è un po', sì. Troppo tardi per gettire adesso, Io sapete cosa faccio? Aspetto la festa di Natale di Chiedo Asilo. Allora vedremo quanti regali riceverò, alla faccia vostra. Ma quali regali? Ma cosa credi, che siamo tutti lì ad aspettare con ansia di gratificare un bambino scontroso, permaloso, testa... Allora forse non avete capito. È anche un po' pingue. Quella roba lì del pingue, poi ci vediamo fuori. Infatti, poi si offendono anche gli ascoltatori. Fuori. No. Ma io non so chi sta frequentando. Non so, mi stanno crescendo i baffi. Sono la star dell'asilo. Oh, mamma mia. È vero o non è vero che ho un sacco di amici su Facebook? Sì, va bene. Sì. Ah, basta aspettare il 15 dicembre. E allora vedrete. E vi vergognerete della vostra pidocchieria. Ma siamo proprio curiosi. Chissà che festa ti faranno, dai. Ti voglio proprio vedere. Non c'era nessuno. Sì, festa. Tutti si dimenticano il regalo. Sì, sì, vedete pure. Tanto io qui sto già organizzando tutto. Cioè? Perché su Facebook per i regali pubblicherò una nota, un documento, una specie di distinta. Con tutti i regali di Natale. Ma non tipo letterina da bambini, eh? Una roba più seria, tipo lista nozze. Tutto organizzato, diviso per generi, alimentari, giochi, abbigliamento, petardi, armi da taglio, tutto diviso. E con i negozi. Sì, gli esplosivi. I negozi consigliati dove stanno i miei gusti. Vabbè, ma guarda che magari non li ricevi tutti sti regali, eh? Cioè, magari ti portano il carbone, te l'ho detto. E allora, se sono veri amici, quelli di Facebook, che tutti dicono sì, sì, sono amici di Facebook. Amici? Avranno piacere di farmi contento, no? Sì, poi tu anche. Poi ci sono regali per tutte le tasche, eh? Sì. Cioè, nessuno può avere l'alibi di non fare regalo per mancanza di euro. Ma senti, ma guarda che gli amici di Facebook sono tanti proprio perché è un'amicizia che non costa niente. Infatti, quando poi c'è da fare un regalo, voglio vedere, tutti si rimuovi dagli amici, tutti quanti, vedrai, ti ritrovi con 3-4. No, tu cominci. Un televisore a plasma o una racchetta da ping pong? Ma neanche un pacchetto di ciche TV. Ma le ciche prima le snobbate. Comunque vogliamo proprio vedere come andrà a finire, bambino Alberto. Aspettiamo il 15 comunque, per vedere la tua disfatta, il tuo fallimento. Vabbè, ma come volete che vada? Sono la star di Chirosino, il Natale sarà la mia festa. Vabbè, senti, io farei... non sono un bambino. Perché non chiudiamo questo spazio inutile dell'intervista ai bambini? Ormai dice quello che vuole. È vero, ormai si è montato la testa. Non appena un'intervista. Pensa a un tripudio di regali. Mamma. Se volete, perché io non sono un tignoso, vi faccio anche partecipare al rito dell'apertura dei palchi. Ma sai che bello, non sto più nella pelle, vedo che bello. Ma vi faccio anche aprire, io dico prendi quello, prendi l'altro. Stanno già transennando l'ingresso perché vogliono venire tutti a vederlo. Sì. Ah, siete invidiosi. Se la stai facendo un po' fuori dal vaso, bambino Alberto. Ma no, io sto sempre attento a cosa faccio, Ma no, ma è un modo di dire, vabbè, nel senso che stai esagerando, ti stai dando delle ari, stai millantando chissà quale accoglienza alla festa, che invece poi alla fine stai tranquillo, che ti beccherai una batosta. E ci sarà anche Gildo, ovviamente. Certo. E miei amici, siccome i miei amici sono anche i suoi, perché lui non può avere un profilo su Facebook, qualche regalino darà anche a lui, no? No. Non gli ho chiesto ancora cosa vuole, però. Ma cosa vuoi che voglia? Dai, ma non esiste. Non c'è per gli amici di Facebook esiste. Nell'immaginazione. Perché mi chiedono sempre di lui, come stai, Ma per farti contento. Quindi quella dell'inesistenza di Gildo è una vostra fissazione. Fatevi vedere da un medico, va? Sì, vado martedì per degli xantelasmi. Allora, Gildo, tu che regali vuoi? E non risponde, vedi che non risponde. Non c'è. Aspetta, forse non c'è. Ma come forse non c'è? Ma c'è o non c'è? O c'è o non c'è, non è possibile. Non è forse... mica una cosa. Cioè, si può equivocare. Ma è tipo un neutrino. Non è cosa mica facile da capire, no? Ecco. È perché lui c'è, non c'è, è piccolo, è sguscia. Cioè, uno che. Cioè, Gildo, se va, non te ne accorgi. Gildo, era qua un attimo fa e non c'è più. Dai, drago, su, fai qualcosa con la chitarra. Mancano le unghie, anche, capito? Non si possono. Cosa c'entra le unghie? E le unghie, guarda, che sono importantissime per la vita di un uomo. Me ne sto accorgendo. Non riesco a tirare su manco la moneta da terra. Sì, ma devi suonare la chitarra e le monete sono quelle che ci tirano, hai capito? Perché tu la suoni e loro ci danno le morte. Dai. Grazie a tutti, ci vediamo settimana prossima. E ringraziamenti li abbiamo fatti in testa, quindi possiamo chiudere così. Drago sta suonando la chitarra. Ma non c'è niente. Tutte sulle note basse, senti. Ma cos'è quella roba lì? Sembra Otto e Barnelli. Eh? Sembra Otto e Barnelli. Chi è? Otto e Barnelli. Cos'è? Io so. Sembra Otto e Barnelli. Ah.